qui in questo panel che insieme a Anne Poli e Claudia Durastanti, che si intitola Il racconto familiare, l'autobiografia sociale, forme e prospettive della narrazione nelle classi popolari. Ringraziamo Sasha Lomnitz per l'interpretariato di Anne Poli. E io ho questo bellissimo onore appunto di dialogare con loro, sono molto felice perché sono dei libri che ho adorato e che mi hanno aperto prospettivo e aiutato a pensare, a riflettere e a capire meglio la vita e il racconto e le forme della narrazione della vita. Quindi la prima domanda che, con la quale comincerei subito è: perché ovviamente nel caso di Anne Poli ci riferiamo a Prima che mi sfugga, un testo che ha scritto nel 2019 in Francia, che è uscito 2 anni dopo in Italia per l'Orma Editore, tradotto da Marta Rizzo. Nel caso di Claudia ci riferiamo agli ultimi suoi 2 testi, quindi La straniera dello stesso anno e il suo ultimo Miss Italia, usciti entrambi per La nave di Teseo. E appunto la prima domanda che porrei è: perché hanno scritto questi libri? Perché hanno scritto questi libri in questo modo? E in quale periodo della loro vita sono stati scritti? Questo sì? Ok. Ciao a tutte, ciao a tutti. Sono molto contenta di essere tornata a questo festival e forse parlerei di un episodio avvenuto durante la prima edizione. Ho partecipato a un panel che si interrogava sul perché a un certo punto si decide, soprattutto se la propria storia biografica, familiare, il proprio rapporto con la classe non è il tema del debutto, ma è una questione che arriva a un certo punto, come è stato nel mio caso, La straniera è stato il mio 4° libro, e si ragionava appunto su questa sorta di istinto ragionato che ti porta a riflettere sulla materia biografica. E però alla fine di quella conversazione, che fu interessantissima, ci fu un partecipante che mi disse: avete parlato tanto di racconto di classe attraverso la prospettiva autobiografica e familiare, quindi soprattutto riferendosi alla scuola francese, diciamo, con cui Anna è anche in dialogo, quindi Eric Bonne che tu hai tradotto, Edouard Louis che tu hai tradotto, Annie Ernaux, ovviamente. Dove sono i romanzi? Dove sono le storie che vanno al di là della testimonianza della classe nella propria vita, quello che ci ha fatto, quali sono i residui che ha lasciato, sia da un punto di vista linguistico, di invenzione formale, e dov'è lo sguardo che interpreta la questione di classe? Quindi per me oggi è inevitabile parlare sia della decisione di farlo attraverso un racconto esplicitamente autobiografico che è La straniera, e poi aver fatto Miss Italia, che è un libro che si occupa di lavoro, di fabbrica, di risorse, di subalternità e di femminismo in un contesto, diciamo, meridionale. Questo romanzo in quella forma probabilmente non sarebbe esistito, non solo senza La straniera, ma senza il lavoro di analisi e riflessioni attorno alla straniera, di cui anche questo festival è stato in qualche modo un tassello. Quindi questo ci tenevo a dirlo. Le risposte su perché si scrivono dei libri cambiano inevitabilmente nel corso del tempo. Io ho iniziato la mia vita nell'ambito culturale, come spesso accade da chi viene da storie di classe, di povertà o di subalternità, come un'impostora, sentendomi un'impostora, sentendo che mi dovevo appropriare delle tematiche della lingua dominante, che è una cosa che racconta anche Annie Ernaux nella scrittura Come un coltello, un saggio uscito per l'Orma che vi consiglio assolutamente di recuperare, in cui riflette appunto su questa dimensione di volersi mimetizzare sovvertendo la lingua dominante a proprio vantaggio. Quindi ho avuto questo percorso e mai avrei immaginato che a un certo punto il mio libro forse più popolare, più esplicitamente popolare, sarebbe stato quello proprio che metteva al centro la questione familiare e di classe. in quel momento ero interessata a capire dove mi stavo io nel mondo, dove stavo io nel mondo come figlia, come scrittrice, come donna, qual era il lessico, il vocabolario che avevo io, no? Senza codificarmi come transfuga di classe. Qualcuna che ha fatto questo percorso, per quanto accidentato, di mobilità sociale, mi serviva in qualche modo scrivere quella storia per capire se potevo stabilizzarla in un testo e forse trovare il sollievo di dire sono questa cosa qua. Ecco, questo posso dire che il libro non risolve queste questioni identitarie, però ti presenta una serie di risposte plurali. Quindi in qualche momento della mia vita, tuttora da scrittrice, mi identifico ancora con le questioni della straniera, in altre invece sono più interessata a capire come superare questo fardello del testimoniare la propria vita e invece usare la formazione, no? La lingua, lo sguardo, lo stile, la critica, la griglia interpretativa che il tuo vissuto ti ha dato per permetterti di andare molto molto lontano. E quindi in qualche modo a volte le scritture autobiografiche sono dei portali che tu attraversi in cui riesci a capire come gestire la libertà che mettere da parte il racconto di te stessa ti ha dato. It was not too long. Bonjour à tous, je suis très contente d'avoir été invitée à ce festival et de vous rencontrer à cette occasion. Alors moi, j'ai donc écrit un livre en 2019 qui s'appelle « Avant que j'oublie ». Et pourquoi je l'ai écrit? Ça correspondait à une urgence, en réalité à plusieurs urgences. Je vais te donner les deux urgences. La première urgence, c'était une urgence d'écriture. J'ai écrit ce livre, ce premier livre, c'est mon premier texte que j'ai écrit à l'âge de 40 ans. J'avais toujours voulu écrire depuis l'enfance, mais dans la classe sociale d'où je venais, les artistes étaient un peu des saltimbanques, il fallait un vrai métier. Donc il y avait cette urgence, ce désir d'écrire qui ne m'a jamais quitté depuis l'enfance. Et il y a une deuxième urgence qui était la mort de mon père, que j'avais vécu comme une aventure extraordinaire. Et c'était, ça va, tu veux que je te... Et surtout une urgence autour de sa mort. C'était donc un homme qui avait commencé à l'usine, qui était monté dans les étages, et en fait qui était vraiment un personnage, et qui pourtant était mort de manière anonyme, dans un hôpital anonyme. Et ça me faisait de la peine que personne ne se souvienne de lui. Et il y a une troisième urgence, c'est que cet homme avait été un père à la fois très aimant et à la fois très difficile, un homme violent. Et ce livre aussi vient des comptes que j'avais à régler avec lui. Buongiorno a tutti e tutte, sono molto contenta di essere qua e di essere coinvolta in questo festival. Allora, per spiegare come ho scritto questo libro che è uscito nel 2019, devo spiegare tre bisogni, tre urgenze. Avevo 40 anni, era il mio primo testo, ma avevo sempre avuto la voglia di scrivere, però dalla classe di cui vengo non si fa, perché gli artisti sono così saltimbanchi, giocolieri, circensi, no, non si fa di scrivere. Quindi era proprio per rispondere a un desiderio dall'infanzia. La seconda urgenza era la morte del mio padre. Il mio padre era morto e quindi era legato a questo, perché era un personaggio molto particolare. Era stato un operaio che aveva avuto diverse promozioni nella sua fabbrica, era un vero personaggio, ma aveva avuto una morte anonima, in un ospedale anonimo, nessuno se n'era accorto, e per me non era giusto, e anche perché questa sarebbe la terza urgenza. Questo padre era particolare, era nello stesso tempo un padre che mi amava, ma era anche difficile, era violento, e quindi con lui avevo qualche conto da sistemare. Et en fait, ce texte s'est construit sur des... Ce texte s'est construit sur des allers-retours de la mémoire, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup réfléchi en écrivant ce texte. Je l'ai écrit un peu d'une seule traite, sans tellement réfléchir à ce que j'allais en dire. Et j'ai été un peu prise par l'écriture de ce livre, puisque au départ, j'étais là pour régler mes comptes. Et puis finalement, ça s'est transformé en enquête plus sensible autour de la compréhension de cet homme, de pourquoi il avait été violent, qu'est-ce que ça avait été sa vie et notre relation. Et en fait, j'avais aussi envie de me... En tant que femme féministe et queer, j'avais envie de comprendre cette vieille génération d'hommes enfermés dans leur silence, à qui on apprend très tôt à ne pas exprimer leurs émotions et à ne pas être en empathie. Il y a un livre très joli à ce sujet de Bell Hooks qui s'appelle « La volonté de changer ». Je vous le conseille. Et donc moi, je voulais un peu entreprendre cette affaire-là et savoir comment mon père avait été pris au piège entre des injonctions à la masculinité et des injonctions à la productivité. Et comment cette équation impossible l'avait rendu finalement d'abord pas fidèle à lui-même et ensuite obligé à une certaine... violence, masculinité, quelque chose de une masculinité un peu toxique, comme on dirait aujourd'hui. Et je voulais, moi, revenir sur cette affaire-là, comme il y a une injonction à la féminité, il y a aussi une injonction à la masculinité. Et voilà. Et en fait, ce livre, c'est aussi une tentative de réconciliation, de terrain d'entente commun après la mort. C'est aussi, quelqu'un m'a dit, ce livre, c'est comme si tu avais raconté à ton père sa propre mort après qu'il a été parti. Questo testo è costruito come delle andate, dei ritorni, è un gioco sulla memoria, ma nello stesso tempo c'era poco, ci ho poco riflettuto, è venuto così, ho seguito un po' questi ricordi che venivano, era come una inchiesta sensibile per capire quest'uomo. Volevo capire la sua vita, capire la nostra relazione, perché in quanto donna, in quanto femminista e queer, vedevo un uomo che rimaneva nei suoi silenzi, che non era capace di esprimere le sue emozioni, che non faceva mai prova di empatia. Quindi questo mi riportava anche a un testo che vorrei citare, che si chiama La volonté de changer, di Bell Hooks, che vi raccomando. E quindi era tutta una riflessione su anche la trappola della mascolinità, del fatto di non poterne uscire, come se ci fosse un obbligo di essere maschile, e che in questo senso lui non era fedele a se stesso, perché era costretto a una certa violenza, in un certo senso adesso si potrebbe dire, per usare un'espressione attuale, una mascolinità tossica. Quindi volevo tornare su queste cose, su questo obbligo alla mascolinità, come adesso parliamo di un obbligo a una certa femminilità. Quindi questo libro va visto come una forma di riconciliazione per trovare un terreno comune, e qualcuno mi ha fatto notare, mi ha detto, è un po' come se avevi raccontato al tuo padre la sua propria morte e se l'avessi condiviso con lui. Je finis juste. Et aussi, ce que je voulais faire, c'était, je sais que le cerveau humain fait qu'on a tendance à oublier les mauvais souvenirs rapidement, et que quand on a vécu des choses difficiles, on se souvient toujours des bons moments. Et là, il n'était pas question que j'oublie. Et il n'était pas question que j'oublie ma mère. En fait, j'avais perdu ma mère plus tôt, et de elle, je ne me souvenais pas, de rien, à peine de sa voix ou son odeur, je ne me souvenais pas. Et là, je me suis dit, je ne vais pas oublier cette fois-ci. Et non seulement je ne vais pas oublier cet homme, mais je ne vais pas oublier le monde dans lequel nous avons vécu, qui est aussi un monde working class, qui est un monde modeste, un monde où le mépris de classe était très fort, et un monde où les rêves s'incarnaient dans des objets, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Et donc c'était aussi un inventaire pour ne pas oublier ce monde qui est en train de disparaître, et toutes ces choses que ce monde a portées, et c'était... porter hommage aussi, c'était remercier et assumer cet héritage. Lo so, il cervello umano ha questa tendenza a ricordarsi solo dei bei ricordi e di buttare via quello che è brutto, ma in questa occasione non volevo che sia così, perché era già successo con mia madre, che avevo perso qualche tempo prima. Di lei non ricordavo la voce, gli odori, niente, e mi sono detto questa volta no, devo ricordarmi, voglio ricordarmi di quest'uomo, del suo mondo, che era un mondo modeste, semplice, anche un mondo working class, un mondo disprezzato, e per me era importante fare come l'inventario degli oggetti di questo mondo, un mondo che costruisce tanti sogni sugli oggetti, e su questo tornerò forse più tardi, quindi fare questo inventario che sia un omaggio, anche un modo sì per ricordarsi. E la seconda domanda che vorrei farvi a entrambe è la questione su, in termini, parlavamo prima appunto di invenzione formale, che stile avete scelto? Qual è stata la riflessione sullo stile che avete fatto per la materia di questo testo? Sì, una cosa di cui forse volevo parlarvi oggi è il costo nello scrivere di sé. C'è una bellissima rivista in inglese che vi consiglio di recuperare, e tra l'altro una delle fondatrici, Livia Franchini, è qua tra il pubblico, si chiama Too Little Too Hard, e ha fatto anche dei podcast in cui si intervistano, si chiedono dei pezzi a scrittrici e scrittori working class per ragionare sulle varie intersezioni tra tempo, valore e lavoro. E in base a una sollecitazione simile alla domanda che mi hai appena fatto, mi è capitato di scrivere un pezzo che si chiama Chiplet, letteratura scadente a basso costo, che era un po' un riferimento ironico al fatto che pre-straniera, ma non perché questo libro abbia fatto quale tipo di rottura o rivoluzione formale, però nella mia vita sicuramente è stato un libro che ha fatto da spartiacque. La straniera era un libro scadente, e infatti si interroga sul fatto chi ha il diritto a scrivere la propria autobiografia, che scrive il memoir, quando diventa formalmente più codificato si parla di autofiction, se invece è il racconto di un trauma, della povertà, in qualche modo se c'è qualcosa che non ha grandissima rielaborazione, ma la scrittura non è mai pura trascrizione della memoria, però diciamo non è innocente il modo in cui decidiamo di categorizzare un lavoro come biografia sociale, autobiografia, memoir, appunto autofiction. E allora mi sono resa conto che paradossalmente scrivere della vita di mia madre, della mia vita, era costato molto poco, perché io avevo esternalizzato, se vogliamo, questa fatica nel lavoro psicoterapeutico, analitico, e a me si presentava come una materia con cui avevo avuto familiarità tutta la mia vita, questi personaggi romanzeschi bizzarri dei miei genitori con tutte le loro varie frammentazioni identitarie che riguardavano la disabilità, il genere, la migrazione, erano disponibili, e quindi per me è stato non solo divertente, nonostante spesso sia una materia biografica attraversata, come diceva Anna prima, da episodi violenti, traumatici, però è prevalso questo desiderio appunto di mettere insieme questa intimità e questa familiarità in una forma ibrida e sperimentale, per anche contestare l'idea che la scrittura working class, soprattutto nel suo primo farsi, sia una scrittura che rinuncia a un pensiero formale. In un testo di Claire Louise Bennett, che è una scrittrice inglese, in cui parla dei libri che l'hanno formata, e cita Anne Quinn, che è stata questa scrittrice working class sperimentale inglese, in cui già essere donna insomma era presentare un livello, no? di marginalità. Working class era un doppio livello di marginalità, dire che sei donna working class e scrivi pure libri difficili era proprio impudente in un certo senso, però io volevo buttarmi proprio in questa avventura. E poi mi sono detta, ma il costo dell'invenzione, il costo del romanzo, cioè arrivare a inventare un personaggio come mia madre invece di limitarmi in qualche modo a raccontarlo, arrivare a inventare un personaggio così paradossale che appunto nella straniera viene presentato in quello che è stato il suo percorso di vita, cioè a fare sempre la scelta sbagliata rispetto a quello che sarebbe stato sensato rispetto alla povertà, alla sordità e comunque una vita raccontata più che attraverso il lavoro, l'assenza cronica di lavoro, il non voler lavorare e l'incorrere perennemente a questa fantasia del debito. Quanto mi sarebbe costato inventarmi una donna del genere? Molto, e questo richiede un tipo di risorsa importante per chiunque che voglia scrivere, che è l'ozio, il perdere il tempo, perdersi anche in sentieri, no? di lettura, di frequentazioni di testi, avere la possibilità di perdere tempo che io da studentessa, mentre immaginavo di diventare scrittrice, io sono un prodotto dell'istruzione pubblica e del welfare italiano, ho avuto la possibilità di fare, e quindi per me c'è un legame diretto tra la mia sperimentazione e invenzione letteraria e le risorse che mi hanno permesso di arrivare a questo punto. Ma negli anni passati dalla straniera a oggi, che sono oramai sei, mi sono resa conto che il tipo di investimento che c'è sulle scritture working class che si autorappresentano e si autoraccontano è maggiore, non arrivo a dire che è molto grande, ci sono collane dedicate, però ci sono oramai editori generalisti che se tu presenti la storia della tua famiglia con un contesto di classe c'è un'accettazione più benigna rispetto a come poteva essere 15 o 20 anni fa, ma l'investimento verso scrittrici e scrittori working class che hanno l'ambizione e l'aspirazione a raccontare la classe, il lavoro, la povertà attraverso livelli di elaborazione formale, magari dialogando con romanzo di genere, un po' più sperimentale, o anche semplicemente inventarsi un romanzo, inventarsi la propria madre e il proprio padre, non c'è lo stesso tipo di investimento. E quindi il sognare il proprio lavoro, la propria classe o la propria famiglia costa molto di più, e questa era una cosa che ci tenevo a dire. C'est intéressant. Pour ma part, les recherches formelles que j'ai faites n'ont pas été tout à fait, enfin très très conscientes, comme tu le dis, Claudia. On n'a pas, moi j'ai pas eu beaucoup de mal à écrire ce livre. Cependant, j'ai quand même fait des efforts à plusieurs étages. D'abord, il y a la question du jeu. C'était une question pour moi de savoir si j'allais écrire à la première personne ou à la troisième personne, ou peut-être à la deuxième personne, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette autorisation d'écrire avait été tellement longue à prendre, j'ai eu tellement de mal à m'autoriser cette prise de stylo, que j'ai décidé de dire « je ». À ce stade, autant y aller carrément et dire « je ». Aussi, c'est surtout que j'ai essayé d'écrire un truc à la troisième personne, en mettant des prénoms comme Stéphanie ou Estelle. Et en fait, ce texte avait l'air travesti. À la troisième personne, ça ne marchait pas, cette affaire-là. Donc, je l'ai fait à la première personne. Ensuite, je me suis attachée à plusieurs choses qu'on peut peut-être qualifier d'astuces ou de ruses. Ce n'est pas une minoration de mon travail que je décris là, mais c'est juste une manière d'entrer en contact avec des lecteurs. Je me suis complètement laissée aller sur la langue, c'est-à-dire que bon, bah, c'est une langue qui rapporte beaucoup d'oralité, c'est du discours indirect libre qui rappelle les propos qui viennent d'être dits ou qui ont été dits, ce qui donne un certain rythme et aussi une certaine ironie. Je me suis aussi attachée à faire un livre court et bondissant, c'est-à-dire que je pense que c'était aussi la proximité de la mort qui faisait faire ça. C'est-à-dire que ma langue a été extrêmement... Elle est dans ce livre, ma langue, elle est rapide, elle est vive. C'est comme quand vous vous noyez dans une mare et vous mettez un coup de pied au fond de la mare pour remonter. Et ben, tout ce livre est construit là-dessus. Sur, à chaque fois que la tristesse l'emporte, hop, on donne un petit coup de pied au fond de la mare et on remonte avec de l'humour, de l'ironie, une blague. Voilà, j'ai beaucoup travaillé par contraste. Entre émotion et rire, entre langue orale et langue plus tenue, plus littéraire. J'ai avancé comme ça, mais sans bien en avoir conscience. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu veux traduire ? Ouais. Ça déjà ? Je sens le mal. C'est bien. Allora, per quanto riguarda le ricerche formali, non ce ne sono particolarmente, o almeno non ce ne sono stato cosciente, non ho avuto difficoltà proprio a scrivere, però ho comunque fatto qualche sforzo. Per esempio, la prima domanda era a quale pronome mi riferisco, se scrivo con il je, l'io, che in francese è necessario, quindi uso la prima persona, la terza persona, la seconda persona. Poi avevo aspettato tanto per autorizzarmi a scrivere, quindi alla fine mi sono detto, beh, scrivo alla prima persona, visto che ho atteso così a lungo, perché se scrivo Stéphanie, Estelle alla terza persona è come un travestimento e non funziona. Poi ho sicuramente usato qualche trucchetto, qualche furbizia, anche per entrare in contatto con il lettore. Per esempio, ho scelto di usare il discorso diretto libero, quindi di riprendere direttamente quello che viene detto dai veri personaggi e scriverli così al filo del discorso. Ho scelto di scrivere un romanzo corto, un po' balzante o saltellante, perché c'era la prossimità della morte e volevo una lingua vivace, che proprio dà dei colpi, un po' come quando ti stai affogando in uno stagno e quando cominci a toccare il fondo dai un colpo di piede per tornare a galla. E quando sei triste ti dai un colpo per ritrovare forse un po' di gioia. Quindi ho giocato molto sui contrasti, cercando di giocare tra la tristezza, ma anche l'umorismo e addirittura le barzellette, o per fare sorridere, anche tra le emozioni e il ridere, tra la lingua orale e una lingua più letteraria. Et j'ajoute que j'ai mis beaucoup d'humour et d'ironie dans ce texte. Et on peut dire que cet humour et cette ironie, c'était aussi mon héritage de ce personnage de père et de cette famille et de ce monde-là, parce que, je ne sais pas comme c'est pour vous, mais chez nous, les minorés et les subalternes ont l'habitude de rigoler. Quand le monde s'écroule sur nous, on rigole. Quand il y a un truc vraiment pas terrible qui se passe, on s'amuse de la situation. Et il y a plein de moments dans ce livre, par exemple, que je n'ai pas raconté, mais qui m'ont semblé... par exemple, l'infirmière qui a tué mon père par erreur, par mauvaise manipulation, elle portait un t-shirt Mickey. Vous voyez, bon. C'est des choses... Tout le monde ne voit pas ça. Nous, on voit ça. Nous, alors je dis nous, je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu la sensation, si j'ai dit je dans ce livre, de dire aussi nous. Et cet humour et cette ironie-là, c'est aussi l'héritage. L'héritage que j'ai voulu porter et qui, moi, m'habite. Voilà. E quindi aggiungo che c'è tanto umorismo, tanta ironia nel mio testo, perché per me anche quello che ho ereditato da questo padre, perché noi delle classi inferiori, subalterni, quando il mondo crolla su di noi e così ridiamo, quando succede qualcosa di brutto cerchiamo da sorriderne. Per esempio, quando l'infermiera ha ammazzato mio padre perché ha fatto un errore di manipolazione, lei portava una maglietta con Topolino e l'ho notato, e secondo me non tutti notano questo tipo di dettagli. Questo è proprio questo tipo di eredità che volevo comunicare. E poiché, insomma, questa conversazione si articola su due tradizioni letterarie, linguistiche e anche filosofiche legate alla classe, al racconto di sé mediato dalla propria storia di classe, e tu partecipi alla traduzione, dunque alla ricezione di molti romanzi di questa scuola francese di cui parlavamo prima, volevamo chiederti, sia io e Anne, com'è fare questo lavoro di traduzione di romanzi working class, sapendo che devi mediare tra contesti di ricezione in cui lì c'è una codificazione molto precisa. Noi transfuga di classe lo diciamo perché lo prendiamo dal francese, per esempio, no? Ci inventiamo altre locuzioni per dirlo. E se poi proprio nel lavoro di traduzione e quindi anche di revisione, ti sei resa conto che c'è un tentativo da una parte di normalizzare la lingua di queste scrittrici, di questi scrittori, in base a quelle che sono le presunti, no? presunte convinzioni o i pregiudizi su come si parla quando si parla dalla strada, e se dall'altra invece magari noti una accelerazione rispetto al folklore, al carattere, alla tipizzazione, in qualche modo, se ci sono a volte delle spinte esotizzanti rispetto alla classe, se ti capita nel tuo lavoro di traduttrice di imbatterti in questo. Grazie, sì, è una cosa che constato, e soprattutto vivendo in Francia, dove vedo anche, lo dicevo un po' ieri, sono testi che hanno un po' delle colonne importanti, anche si ispirano molto alla sociologia di Pierre Bourdieu, e dove in Italia non abbiamo ancora tutti i testi tradotti, non c'è stato lo stesso ricezione in ambito universitario, ma in Francia vedo dire proprio che anche al di là dell'accademia c'è una familiarità con questi termini, che mi ricordano un po' la familiarità che noi abbiamo con il linguaggio psicoanalitico. Anche chi non ha letto Freud parla di rimosso, di atto mancato, e lo stesso avviene in Francia con termini come capitale simbolico, capitale culturale, capitale di contatti, si sa, distinzione, il ruolo della scuola e anche la questione della classe, quindi un discorso sulla classe sociale, anche con certe derive che fanno in modo che anche in Francia questi testi poi vengono interpretati con delle etichette più mediatiche che letterarie, ma questo è un altro discorso. E questo, diciamo, ha dell'impatto anche su quella che è la ricezione e la critica di questi testi, sia perché anche in Francia poi c'è una lunga tradizione di critica, e già la dice lunga se vediamo le date di scrittura e di pubblicazione del testo. Faccio l'esempio classico, che è Annie Ernaux, Il posto è stato scritto nel 1983, è stato pubblicato in Italia nel 2014, perché c'è stata una casa editrice fondata da Lorma, Marco Federici Solari e Lorenzo Frabbi, che hanno creduto in quest'opera. E sarebbe interessante chiedersi anche perché non è stata pubblicata prima questa scrittrice, cosa ha impedito la ricezione di quel valore, del valore di quei testi, dell'importanza di quel discorso. Quello che vedo nella critica, che un po' mi dispiace, e che sono un po' dei fraintendimenti rispetto a Niarno, ma anche e per quanto riguarda invece di Ribon, anche il fatto che il ritorno a Rance, e quindi quello che lui chiama il suo coming out sociale, la scrittura del sé, è arrivato quando era già un grande sociologo e un grande filosofo, e quindi è stato un coming out diverso rispetto a chi scrive un primo romanzo, anche ispirandosi a quell'opera che lui ha fatto, e che non era un romanzo, in Francia non è categorizzato come un romanzo. E per quanto riguarda, ecco, lo stile, il fatto che manca lo stile di Annie Ernaux, ho sentito spesso, ecco, dire queste frasi come non sa scrivere, non fa un lavoro sulla forma, e non c'è niente che io possa dire di più se non quanto è stato già detto su quel testo, che è La scrittura come un coltello, che in cui lei stessa spiega che discorso formale e anche politico c'è rispetto alla letteratura, come si pone rispetto alla letteratura, e dire la scrittura è un coltello che scarnifica la carne del reale, ci sta dicendo che la scrittura non è un orpello per spararsi pose e che non vuole dilettare e far passare il tempo a nessuno. E quindi c'è anche una coerenza politica con la materia narrativa di cui parla. Un'ultima cosa che mi sento di dire è che, sempre in ambito critico, viene risposto sempre sono testi universali che parlano a tutti. Potrei essere d'accordo, ma a condizione di quale universalità si parla. Non è l'ombrello su cui ci stiamo tutti, non è la notte in cui tutte le vacche sono nere che nasconde la differenza. È un libro che parla a tutti, ma rimette tutti, inchioda tutti alla propria storia sociale, quindi parla a tutti in modo diverso. Sono testi, e anche questa la potenza, che ci aiutano anche a fare da controdiscorso a tutta una serie di narrazioni a cui siamo esposti, perché non è vero che non si parla di storia di vita, ma siamo continuamente esposti in campo mediatico, giornalistico, televisivo, a storie di vita in cui la percezione di classe è completamente disaffiliata, tutte singolarità insostituibili, oppure lette su un criteri più magari psicanalitici, senza togliere niente al valore della psicologia e della psicanalisi, però dal punto di vista del triangolo edipico siamo tutti uguali, siamo tutti figli, vittime di genitori, e non c'è questo discorso invece che riporta anche il conflitto di classe all'interno della famiglia. Cosa significa fare degli studi e poi riportare quella violenza simbolica all'interno della famiglia, con chi quegli studi non li ha fatti, con chi è escluso dalla produzione, dalla fruizione culturale, come lo si articola. Lì è veramente una lettura di classe molto emancipatoria e che aiuta anche un po' a cambiare il reale, a capire come fare. Scusate, l'ho presa un po' lunga. Per quanto riguarda la normalizzazione, mi trovo sempre con questo a fare conti con questo problema, e ho differenti esempi, ne faccio due. Uno è, siccome sono testi che appunto si rifanno molto al linguaggio della sociologia, usano spesso i termini sociologici, e trovo anche importante il fatto che questi termini entrino in letteratura. Penso al binomio dominanti-dominati, si potrebbe dire classe media, si potrebbe dire borghesia e proletariato, ma invece, ecco, o classi popolari, ma invece lì si esprime un rapporto tra le due classi, non c'è solo una nominazione, ma c'è proprio un rapporto molto chiaro. E a volte mi è capitato, in fase di revisione, dei commenti, ma togliamo, ma cambiamo questa coppia, ma una volta è brutto, e quindi, ecco, a dover anche difendere, ma non perché critico le scelte o il gusto, perché non c'è quella familiarità con quell'importanza e quelle spie che invece sono importanti da mantenere. Un'ultima cosa che ho notato nella traduzione di un testo in cui sono testi in cui anche l'ingiuria e l'insulto hanno un valore molto importante in termini non psicologici ma sociali. Cosa fa l'insulto alle categorie minorizzate, cosa fa di noi, e come l'insulto riguarda certe categorie sociali e non altre persone. E nell'ultimo testo di Edouard Louis c'erano una serie di insulti omofobi e razzisti che l'autore usava consapevolmente, ce n'erano 20 uno dietro l'altro, e mi sembrava fondamentale renderli nella loro volgarità, nella loro brutalità. E poco dopo l'uscita del testo in italiano, come per caso, ho letto un'intervista dell'autore che diceva che in differenti traduzioni straniere quegli insulti gli erano stati tagliati, ridotti, e allora lì viene da chiedersi perché, cosa entra in gioco che fa togliere le parole nella loro, la violenza delle parole quando lo scrittore stesso la vuole rappresentare, una percezione di un certo tipo di letteratura, di un certo tipo della lingua che deve essere letteraria, e ci dà anche un po' quello che dicevamo ieri, lo scarto tra un testo e a volte il lavoro che viene fatto a posteriori, chi lo fa, con quali scopi volontari o anche semplicemente percezioni e idee precise di cosa deve essere un prodotto letterario. C'est très intéressant ce que tu dis, Annalisa. Moi, j'ai été étonnée à la réception de mon livre. J'ai employé des mots que j'emploie dans ma vie de tous les jours, que nous employons dans notre vie de tous les jours. Alors, comme je vous le disais, ce livre a été construit en contraste, c'est-à-dire il y avait la langue tenue, la langue orale, mais aussi il m'est arrivé d'écrire le réel d'un corps qui meurt, par exemple, en employant des mots un peu gros, comme le caca, le pipi, des choses comme ça, ou bien tout simplement des gros mots aussi qui surgissent dans la vie de tous les jours. On dit... espèce de connasse, bon voilà. Et pour avoir écrit ces mots-là, on m'a dit, puisque ce livre a eu beaucoup de succès, il a rencontré vraiment beaucoup de public, et j'ai eu un prix à la Radio Nationale, et en fait, une fois arrivé sur le plateau, on m'a dit, mais ce que vous avez écrit, c'est hyper trash, c'est hyper punk. Et en fait, je comprenais pas très bien cette question, je voyais pas où c'était trash et punk. Qui, chez vous, s'occupe de soigner le père mourant ? C'est la bonne ? Parce que moi, c'est moi qui l'ai soigné, moi, en fait. Donc, il y avait toujours ce décalage de langage où ils n'osaient pas dire que c'était vulgaire, mais ils trouvaient ça hyper trash quand même. Voilà. Et pour revenir à cette histoire de transfuge de classe dont tu parlais aussi, donc c'est une drôle de catégorie, parce que moi, je me suis rendu compte que j'ai un peu construit mon storytelling, parce qu'il faut faire un storytelling quand on est auteur maintenant dans le marché tel qu'il est. J'ai un petit peu construit mon histoire pour vendre mon livre sur cette histoire de working class. Et après, on m'a enfermée dedans. C'est-à-dire que désormais, je suis un écrivain transfuge de classe. Ce qui n'est pas une catégorie littéraire en soi, c'est une catégorie sociologique. Mais c'est commode pour le marché de l'intituler de cette façon, de manière à pouvoir le vendre, ou de manière à pouvoir le faire passer dans le mainstream. Et c'est ce que fait le marché. Je te laisse parler parce que tu as des choses à dire. È molto interessante quello che dici e io voglio raccontarvi che quando quindi il mio libro è uscito, io avevo usato delle parole del quotidiano, giocando, come vi dicevo prima, sul contrasto tra orale e linguaggio più sostenuto, più ricercato, ma avevo anche tanti elementi del mondo reale, anche di un corpo che muore. C'era, si parlava di cacca, di pipì, c'erano delle parolacce, espèce de connasse, che sarebbe stronza, non esitavo a scrivere queste parole. Poi il mio libro ha avuto un grande successo, in particolare ho avuto il Prix Inter, della principale radio pubblica francese, e quando sono andato per l'intervista alla radio dopo il premio, che è un premio del pubblico, degli auditori, mi hanno detto wow, ma quello che hai scritto è iper trash, è iper punk, e io non capivo, perché non vedevo, parlavo solo della mia realtà, e avevo voglia di chiedere, ma da voi chi si occupa del padre, della madre, e una badante, perché io sono stato io che mi sono occupato del mio padre e che sono stato confrontato a queste cose. Poi devo comunque un po' confessare che, come devono fare spesso gli autori, su questa storia di transfuga di classe, mi sono costruito un po' la mia storia, ho fatto il mio storytelling, perché adesso gli scrittori e le scrittrici le dovevano fare, e per esempio ho giocato sulle mie origini, sul fatto di essere una scrittrice working class, e adesso sono in questa casella in Francia, perché è comodo per le case editrici, è comodo per il mercato di avere un'autrice ben definita, e adesso c'è da riflettere su come forse uscirne. Et voyez comment c'est, je croyais m'être émancipée et avoir enfin réussi à rentrer dans l'écriture. Et maintenant, me voilà à nouveau arrêtée par une étiquette. Et j'ai l'impression chaque matin qu'il faut que j'écrive Les Misérables. Donc, je suis à nouveau empêchée dans mon désir. Enfin, je ne dis pas que c'est la faute de la société, j'ai qu'à me mettre au travail. Mais quand même, ça joue cette histoire d'étiquette. Et ça a un coût, en effet. C'est-à-dire que... Si j'écris pas ce qu'on attend de moi, est-ce que je vais avoir le même succès? Est-ce que je vais gagner le même argent? Comment je vais vivre en étant auteur? Enfin, etc. Ça pose plein de questions. E, di fatto, io pensavo di essermi emancipata, di essere entrata nella scrittura, e poi alla fine vedo che adesso ho un'etichetta su di me, si aspetta da me di scrivere I Miserabili 2, quindi mi sento un po' costretta nel mio desiderio di non poter esprimerlo come vorrei, questo desiderio di scrittura, e questo è un costo. Non voglio dire che è tutto colpa della società, però chiaramente mi chiedo, ma che si aspettano di me? Io voglio scrivere, ne ho anche bisogno per vivere, per guadagnare, e il mio primo libro è stato un successo, ma adesso che devo fare per campare scrivendo, visto che ci sono certe attese molto precise su di me? E forse rispetto a questa... violenza dell'intervento di revisione o di editing rispetto alle proprie scritture working class, La Straniera è stato tradotto in diverse lingue. Per me è stato un osservatorio interessante per vedere come lo stesso libro in alcuni paesi veniva su alcune questioni completamente opacizzato. Diciamo che quella di classe, della povertà e del denaro, della questione nominale, chi sei quando ti emancipi dalla casa materna o paterna e in qualche modo acquisisci un capitale simbolico diverso, molto discusso in Francia, per esempio, nei paesi ispanofoni, molto libro letto quasi attraverso solo il filtro della migrazione. Quando mi chiedevano in Italia cosa è stato ricevuto della Straniera, questo festival rappresenta un'eccezione, perché fondamentalmente è il libro su mamma, in un certo senso, in cui o le politiche della disabilità o della sordità sono state molto... in qualche modo opacizzate. Quando è stato tradotto in inglese, L'unico capitolo che ha avuto degli interventi o delle proposte di intervento massicce era quello sul denaro, la classe e la povertà. E mi ha messo in una scomoda posizione di chiedermi quanto io stessa, che avevo vissuto in quella casa, ero stata figlia di mia madre che ancora vive in condizioni di subalternità per scelta a questo punto, quanto io avessi diritto di scegliere quel lessico o addirittura utilizzare per esempio un registro ironico che non fosse solo puramente tragico. Quindi l'editor mi dice: non rischiamo di dare un'immagine edulcorata o romanticizzata della povertà, che per me è stato un momento di grande confusione, perché io venivo da quell'esperienza e mi sono resa conto che quella polifonia, quella capacità di alternare i registri, disinnescare la violenza della fragilità economica anche attraverso la risata, per me era diventato anche non solo un espediente psicologico, ma era diventata anche una scelta di stile. Per me il far ridere in alcuni passaggi tragici del libro non significa tradire l'autenticità dell'esperienza, ma cercare di in qualche modo proporre un tema di come scriviamo le nostre vite, scegliendo dei precisi codici che non rispondono solo a delle questioni, appunto, come dicevi tu prima, psicanalitiche, ma anche a un certo punto di gusto. E questo mi ha fatto capire, io non do patenti di, nonostante mi vengano chieste, spesso ci sono delle autrici, prima lo raccontavo ad Annalisa, che decidono di fare il proprio romanzo alla Near No, diciamo, ma sono un po' insicure di poterselo permettere perché magari appartengono a una piccola media borghesia oppure a una borghesia, e quindi cercano la validazione in qualche modo dalla scrittrice che ha avuto come me un percorso working class per capire se lo possono permettere. A me questa, non provo mai fastidio, provo casomai forse a volte una sorta di tenera indulgenza, perché mi chiedo dov'è la necessità di venire a occupare il campo in un certo senso e non poter raccontare qual è stato il proprio rapporto con la classe, con l'appartenere a una classe dominante, con il denaro. Il romanzo italiano del Novecento è stato ostaggio di questo senso di colpa borghese nei confronti delle classi popolari. Se veniva scritto bene è un conto, abbiamo dei capolavori, ma possono essere scritte storie anche con una grande sciattezza. Lo stesso vale per la letteratura working class, non dobbiamo commettere l'errore di pensare che tutte queste storie abbiano una nobiltà letteraria o stilistica, c'è anche qui una casistica variegata. E poi giuro che chiudo, però mi è venuto in mente, rispetto a questo tema delle aspettative su chi può scrivere cosa, la borghesia può scrivere delle classi popolari, io chiedo in quel caso più fatica, più lavoro, devo sentire che c'è stato un investimento nell'ascolto, nella polifonia, sgamo queste scritture come inautentiche nel momento in cui invece propongono una monotonia, e quindi il tono è tendenzialmente sempre tragico, una sfiga più sfiga dell'altra, e però ci sono scrittrici invece che decidono di sviluppare un interesse verso la povertà, la violenza della povertà, delle classi popolari, che hanno degli esiti altissimi. Io mi occupo di questa imprint femminista che è La Tartaruga, abbiamo pubblicato un libro di Pilar Quintana, che è una scrittrice colombiana, si chiama La Perra, La Cagna, ed è la storia di questa donna che vive in questa selva colombiana, non riesce ad avere figli e in qualche modo proietta il desiderio di maternità su questo cucciolo di cagna. In realtà il vero tema è appunto quello di queste persone marginalizzate, costrette a fare lavoro domestico nelle case dei ricchi, raccontato veramente con un livello di attenzione e di cura fondamentale, che ha creato però il frainteso di pensare che Pilar Quintana fosse una scrittrice working class. Viene a fare un tour in Italia, c'è una lettrice che ha nei suoi confronti aveva una venerazione, siamo nel taxi insieme e lei le dice: finalmente persone della nostra classe che riescono a produrre questi classici contemporanei. A un certo punto poverina Quintana dice la frase: no, io soy declassada, cioè io mi sono declassata apposta, ho fatto un viaggio nelle fasce popolari perché era veramente il centro del mio interesse letterario. E allora in quel caso si sentiva, in molti casi non si sente, ma spesso la libertà letteraria d'immaginazione deve riguardare anche questa parte, per noi che scriviamo da questa parte. Quindi non sempre la storia della tua famiglia contadina operaia diventa interessante per te come tema di un autofiction, un romanzo, non sempre la storia della tua povertà o della violenza sistemica rispetto alla povertà ha raggiunto dei livelli di riflessione letteraria, personale, psicologica, tale da potersi trasfigurare in un libro. E quindi io vorrei che il campo rimanesse il quanto più possibile libero, sia per chi sta da una parte o dall'altra del confine, in un certo senso. Grazie. Allora, ho ancora tante domande da farvi e alcune le riassumo, perché ci sono. Allora, innanzitutto abbiamo parlato di definizione di generi da parte delle case editrici, quando un testo viene tradotto, e quindi vorrei sapere voi come definireste il vostro testo, con le categorie letterarie del mercato o anche non per forza quelle. E poi entrambi i testi, La straniera e Prima che mi sfugga, nel caso di Anna in Francia, sono passati per un importante principio di validazione, che è quello dei premi. In particolare sono stati entrambi candidati al più grande premio nazionale. Nel caso di Anna il premio Goncourt, nel caso di Claudia il premio Strega. E volevo sapere cosa ha rappresentato questo in termini di rapporto alla propria scrittura e anche in termini di rapporto agli lettori, alle lettrici, al campo editoriale, ma anche in termini di rapporto alla propria storia, se c'è stato una performatività, un cambiamento in questo. Merci per cette question. D'avoir été sur la liste du Goncourt, notamment la première liste du Goncourt, puis après sur la liste du Goncourt des lycéens, puis après sur la liste du Goncourt du premier roman, puis après, enfin bref. En fait, c'est amusant parce qu'une fois que vous êtes, c'est comme s'il y avait une espèce de prescription. Donc j'ai été sur la première liste du Goncourt et après j'ai été un peu sur toutes les listes de prix. Donc c'est très agréable, je peux pas dire le contraire. C'est beaucoup de validation, moi qui avais besoin d'avoir une validation finalement pour écrire et pour me lancer là-dedans et pour qu'on me dise ah oui oui vous êtes visiblement vous êtes écrivain, j'avais besoin que quelqu'un d'autre me le dise, quelqu'un d'autre valide cette affaire-là. Donc au début ça a été une énorme validation. Et ce que ça a changé aussi, c'est que vous prenez du capital symbolique très fort, hein. J'ai pris 9000 points de capital symbolique en très peu de temps. Donc je travaillais dans un journal, j'étais la fille qui corrige là-bas près de la machine à café, et en deux minutes, tout le monde s'est dit à me dire bonjour, à me saluer dans l'ascenseur, voilà. Donc ça, c'est, évidemment, ça change quelque chose socialement. Ça change aussi l'attention qu'on vous porte, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce que vous dites devient prophétique, quasiment, alors que rien n'a changé entre ce que vous avez dit hier et aujourd'hui, mais là, tout d'un coup, ça devient prophétique, parce que vous êtes sur la liste du Goncourt. Voilà. Donc ça change beaucoup dans... la capacité à avoir confiance en soi et à être entendu. Je te laisse traduire. Quindi sì, io mi sono ritrovata sulla lista del premio Goncourt, che è il principale premio in Francia, poi dopo il Goncourt dei liceali, poi il Goncourt del primo romanzo, quindi era divertente, ma c'era come un aspetto di prescrizione Goncourt, cioè essendo su questa prima lista, di conseguenza mi ritrovavo su tutte le liste quasi di primi importanti, quindi non lo nego, è stato molto piacevole. E poi per me era come una conferma, e ne avevo bisogno, perché era la conferma che ero scrittrice, quindi per il capitale simbolico è stato fantastico, ho acquisito 9000 punti in un colpo, io che lavoravo come correttrice, che nessuno considerava dove lavoravo, era quella vicino alla macchina caffè, da un giorno all'altro tutti mi salutavano, c'era un altro sguardo sociale proprio su di me, addirittura tutto quello che dicevo diveniva profetico, come se, perché ero sulla lista dei libri ritenuti per il Prix Goncourt, allora anche se dicevo le stesse cose del giorno prima, aveva un tutt'altro valore, quindi sì, ha creato grandi, grandi cambiamenti e questa fiducia in me stessa, che questo è stato importante. Donc ça a été dans ma vie, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, ça m'a permis aussi de porter la parole des gens que je voulais porter, de montrer un milieu aussi, enfin j'ai eu la parole en fait que j'avais pas avant, et ça a tout changé. Ensuite ce que ça m'a permis aussi, c'est de rencontrer des tas de lecteurs. Et finalement, le prix que j'ai eu, parce que le Goncourt, ils m'ont nommé, mais ils ne me l'ont jamais donné. Tandis que, par contre, j'ai eu le prix Inter. Et le prix du livre Inter, c'est un prix de lecteur. Et donc, quelque part, ma grande jouissance, ça a été d'être validée par les lecteurs et pas par les instances de validation qui existent désormais en France, qui commencent à être un peu, à sentir un peu le rance. Je ne sais pas si vous avez lu, par exemple, Triste Tigre de Nes Chino l'année dernière, qui a peut-être été traduit en italien, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les gens du Goncourt ont dit qu'ils n'avaient pas donné le Goncourt à Nes Chino parce qu'on ne va quand même pas mettre un livre qui parle d'inceste sous le sapin. Voilà. Et donc, il y a cette histoire d'instance de validation. Et quand on est working class, à quel moment on arrête ce compromis-là ? C'est intéressant, cette histoire du compromis. Où est-ce qu'on se situe quand on est working class ? Est-ce qu'on se vautre dans la compromission ? Est-ce qu'on reste sur son quant à soi ? Voilà, on peut peut-être parler de ça. Sì, quindi confermo, tanta fiducia in me in più grazie a questa iscrizione sulle liste dei premi, e per me era importante perché volevo parlare del mio ceto, da dove venivo, e quindi questo me lo permetteva. Poi ho avuto tanti lettori, e in particolare di questo prix Goncourt sono stato nominata, ero sulle liste, la seconda, la terza, ma non l'ho ottenuto. Al contrario, come si diceva prima, ho avuto questo prix Inter, che è un premio dei lettori, e per me questo è più importante, perché il prix Goncourt è più un premio del milieu letterario parigino, delle istanze che danno la convalida, e per certi versi in Francia è un po' ammuffito, perché per esempio l'anno scorso sulla cinquina o gli ultimi c'era questo Triste Tigre de Nachino, che non l'ha avuto, e la giuria ha spiegato che non l'avevano dato a Triste Trig perché non si può dare il premio a un libro che parla di inceste, perché non si può mettere un libro di questo tipo sotto l'albero di Natale, perché un classico in Francia, il premio Goncourt è il libro che viene regalato quando non sai che cosa offrire, offri il premio Goncourt a Natale quando non hai un'altra idea. Quindi questo riporta anche a tutta una riflessione su quali sono i compromessi anche ai quali è pronta la letteratura di tipo working class, fino a dove andare e quando, e forse questo se ne parlerà dopo. E sarò molto concisa, appunto sempre nella scrittura come un coltello, Annie Ernaux dice non esiste l'universale, esiste il collettivo. Io credo che quello che è successo dopo La straniera stranamente mi ha riportata al punto di partenza, la popolarità che ha avuto, le traduzioni, la cinquina strega, mi hanno riportata al punto da cui ho iniziato a scrivere, e cioè con un'idea di interlocutrici, interlocutori, lettrici e lettori possibili che come me sentissero profondamente di appartenere a un determinato tempo storico, di essersi formati in una determinata condizione materiale, e che dall'intersezione di questa cosa si fosse formato poi un gusto preciso. Ed ho capito che è da lì che voglio scrivere. Quindi in un certo senso a me la relativa popolarità mi ha dato il lusso di poter tornare a essere marginale. Io sapevo di non voler fare La straniera 2 perché non mi inserisco in questo filone di scritture come quella di Ernaux, Ribon, Edouard Louis, che sono proprio dei progetti, ogni libro è un'installazione, no? Nel ricostruire un affresco etnologico, storico e sociale sulla classe. Invece mi voglio portare la classe in tutte le storie che scrivo, in un certo senso, e quindi cosa ho guadagnato da quel libro? Qual è il vero lusso che mi ha dato la popolarità? Quello di potermi scegliere oggi gli interlocutori e sospettare di questo desiderio costante che hanno le persone nel loro esordi lavorativi nel mondo della letteratura di questa questione della legittimazione culturale. Io purtroppo vedo questo problema anche in tante battaglie politiche, lotte del presente. Arriva quel momento in cui ci si ingrandisce, si ha popolarità, si sente di intercettare un bisogno collettivo più ampio, e poi arriva l'idea che comunque con certe forme di potere, di mercato o di autorità culturali bisogna dialogare o ricevere la loro legittimazione. Ecco, a me la straniera, se ha fatto qualcosa, mi ha reso da questo punto di vista ancora più separatista, e quindi questa era un'altra cosa che ci tenevo a dire oggi qui. Grazie tantissimo a Anne Poli e a Claudia Durastanti e a Sasha per la traduzione, e lascio la parola a Valeria Silvestro e Angelica Lippi di Non una di meno Prato per il momento dell'elefante nella stanza.